Ciao a tutte e a tutti. Cercherò di raccontare com'è andata l'iniziativa che si è svolta ieri a Cagliari per il 25 aprile. Io esco a pretesto, l'iniziativa appunto che si è svolta in Piazza Garibaldi verso le 11:30 a Cagliari, pensata da un gruppo di antimilitaristi e antimilitaristi che hanno deciso di scendere in strada per protestare contro l'incapacità del governo, ma anche delle regioni, di affrontare la pandemia seriamente e con coscienza. Invece, continuano a prevalere gli interessi economici di un sistema neoliberista che ha altre urgenze e sicuramente le priorità non sono quelle che riguardano la salute e la vita delle persone. Non siamo gli unici a chiedere che finiscano gli investimenti per le spese militari. Il nostro sistema sanitario nazionale è stato fatto a pezzi e negli ultimi 9 anni, come recitano in tanti, alla sanità sono state sottratte risorse pari a 37 miliardi di euro, pari appunto a una perdita di 43.000 posti di lavoro e posti letto. Quindi per noi non è strano che in Sardegna l'85% dei contagi sia avvenuto in ospedale e nell'RSA, perché appunto privi di risorse e per una gestione anche totalmente inefficace e inadeguata. Ora, in piena pandemia si continua a usare la stessa logica, si regalano soldi pubblici alle strutture sanitarie private e si pretende di risolvere la crisi sanitaria con il volontariato, senza riconoscere ancora una volta il lavoro delle persone e soprattutto si continuano a investire soldi per la spesa militare e la produzione degli F-35 e in Sardegna riprendono senza tregua le esercitazioni militari. Ecco perché alcuni cartelli che sono stati portati in piazza recitano proprio questo: 25 aprile 2020 c'è ancora molto da liberare. Tutto fermo per emergenza Covid, ma le esercitazioni militari continuano indisturbate nei poligoni sardi. La spesa militare ha raggiunto 25 miliardi nel 2019, mentre la sanità pubblica taglia 32 miliardi dal 2009. 6 ospedali sardi subiscono tagli pesantissimi nel mese di marzo, comprendono gli ospedali della Maddalena, di Bosa, di Sorgono, Isili, Ghilarza e Muravera. Ecco che un'altra compagna porta un altro cartello con scritto, scusate, lo devo cercare. Lista della spesa militare, un F-35 costa circa quanto 1.100 posti letto d'ospedale. Questi sono i messaggi che sono stati portati in piazza e pensiamo, tra le altre cose, che lo Stato non sia stato in grado di affrontare con le persone un discorso di responsabilità di fronte alla pandemia perché è in malafede. Basta soltanto pensare all'ospedale Covid-19 a Milano Fiera, costato 21 milioni di euro, in grado di ospitare soltanto poche persone. Ora, dall'inizio in Italia si è cercato di colpevolizzare le persone come responsabili dei contagi e quindi delle morti, quando a quanto pare anche le restrizioni sono state pensate molto in ritardo e molte persone hanno continuato a lavorare. Non bisogna dimenticare che molti contagi sono avvenuti nelle fabbriche. Chiediamo per questo anche la fine dello stato di polizia. Siamo stanchi degli abusi e dei soprusi delle forze dell'ordine che ormai da tempo occupano le nostre strade, le nostre piazze, ma anche in questo momento di crisi hanno definitivamente gettato la maschera mostrando tutta la loro forza repressiva e prevaricante. Questo viene scritto nella chiamata. Le istanze portate in piazza sono chiaramente diverse. Vanno dalla richiesta di potenziamento della sanità pubblica ai soccorsi immediati e porti aperti subito per i naufraghi e le naufraghe, i permessi di soggiorno, regolarizzazioni per le straniere e gli stranieri, il reddito di emergenza e abitazioni decenti per tutte e tutti. Si parla anche di amnistia e libertà dei prigionieri e delle prigioniere e la chiusura dei CPR. E si chiede anche una maggiore tutela per le donne e minori vittime di violenza e soprattutto in quest'ultima fase si discute sul totalitarismo digitale, cioè l'innovazione digitale dominata da poche grandi aziende private è un ulteriore strumento per reprimere la vita sociale e la dimensione umana delle nostre relazioni. In sostanza si chiede la fine dello stato di polizia, l'epidemia. Come abbiamo scritto nel volantino, si combatte con la consapevolezza, la cultura e la libertà e non con l'ignoranza, il sospetto e l'odio. Durante la mattinata in piazza si sono avvicinate diverse persone solidali, ma anche passanti che hanno avuto la possibilità di scambiare due chiacchiere, ma anche di condividere le proprie preoccupazioni e anche il dissenso per questa gestione.